Buongiorno a tutti, accomodatevi, grazie. È così bello. Mi sono messo gli occhiali per vedere da vicino, perché da lontano ci vedo bene e vedo veramente quanto è bello vedervi. All'inizio, proprio mentre eravamo sopra che pregavamo, il pastore ha chiesto a tutti, a me anche nello specifico, dice: ma tu hai capito il programma com'è? E io gli ho risposto: sì, ho capito che dobbiamo andare di fretta e quindi dobbiamo fare presto. E avevo capito talmente bene che anche il titolo del messaggio è Una vita sul tapirulan, quindi più in fretta di così non si può. Sappiamo più o meno tutti il tapirulan che cos'è, no? Quell'attrezzo che gira con un tappeto che gira, che tu se ci sali sopra sei costretto o a correre o a camminare. E accosteremo questo strumento, questa attività, con una storia che conosciamo tutti molto bene, che è la storia del figlio prodigo. E io vorrei leggere i primi versetti con voi. È scritta in Luca, al capitolo 15, dal versetto 11. È Gesù che parla mentre sta insegnando a una folla con i pubblicani e i farisei, i pubblicani da una parte, i farisei dall'altra, che più o meno lo ascoltavano, lo criticavano, ed è un seguito di tre parabole, sempre di tutto di qualcosa che si perde e che va ritrovato, prima una dramma, poi una pecora, ma qui si tratta di una persona, quindi probabilmente è andato increscendo il Signore, partendo da una pecora, arrivando a una persona. E Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con quei baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Fermiamoci qua per adesso. Questo giovane si è trovato in una situazione che gli andava stretta. A casa sua si sentiva controllato, si sentiva osservato, si sentiva comandato e in fin dei conti credeva che non stava vivendo la vita che meritava o la vita che desiderava. È come se lui fosse su un tapirulan, appunto, e un altro decidesse la velocità a cui doveva andare. Quindi non aveva il pieno potere e il pieno controllo di se stesso. E avere il controllo della propria vita è una delle ambizioni più comuni e nascoste nel cuore nostro. Ognuno vuole essere protagonista e autodeterminarsi per quelle che sono le sue scelte, per quelle che sono le sue opportunità, per come svolgere la sua vita. E quindi lui ha preso a volo un'occasione, ha detto: papà, noi due non possiamo andare tanto d'accordo, quindi dammi quello che mi spetta, che io me ne vado. Io più divento maturo e più capisco la sofferenza del padre, perché non è mai bello quando un figlio va via, anche se è necessario, è buono e deve essere così, però per un padre è sempre qualcosa che viene a mancare. E se uno va via in un modo buono, in un modo consenziente, per uno sviluppo positivo, è bellissimo. Ma se uno va via con uno strappo, ti rimane senz'altro una ferita. Però a quel giovane non tanto gli è interessato niente dei sentimenti del padre, ha preso e se n'è andato. È come se fosse salito sul tapirulan e avesse detto: ah, finalmente comando io, voglio andare piano, vado piano, voglio andare veloce, vado veloce, voglio accelerare, accelero. Aveva finalmente raggiunto la sua autodeterminazione ed è quello che noi vogliamo, tutti, inconsciamente, più o meno esplicitamente, ma tutti lo vogliamo. Eva aveva tutto, Adamo ed Eva avevano tutto nel paradiso, ma volevano autodeterminare il fatto di andare a mangiare quel frutto. Quindi è qualcosa che è dentro di noi, che non possiamo farne a meno. Ma in realtà la nostra vita ci insegna, la vita quotidiana, la vita proprio quella normale, ci insegna che le cose che noi possiamo veramente controllare sono poche, sono molto poche, sono pochissime, quasi niente. Noi possiamo desiderare tutto. Possiamo desiderare di avere una bella giornata, possiamo desiderare di avere un bel lavoro, possiamo desiderare che un colloquio, un'interrogazione vada bene, possiamo desiderare di realizzare il nostro sogno, ma tra il nostro desiderio e la concretizzazione pratica, vera, di quello che desideriamo, ce ne va di spazio e noi lo desideriamo, ma non possiamo determinarlo. Quindi in realtà il fatto di essere sul tapirulan della propria vita e di avere la presunzione di controllare tutto è proprio una presunzione. E credetemi, è quello che ci sta succedendo. Chi avrebbe mai detto che io avrei visti arrivare tutti in orario? O chi avrebbe mai detto che tutti quanti saremmo stati così composti con le mascherine? Ci voleva qualcosa dall'esterno che ci avesse condizionato in maniera così forte ed è venuto. Noi controlliamo veramente molto, molto poco. Possiamo desiderare di guadagnare tanti soldi, ma il desiderarlo non ti fa aumentare il conto in banca. Possiamo desiderare il meglio per i nostri figli, ma loro faranno le loro scelte. Faranno la loro vita. Possiamo desiderare di avere un fidanzato, una fidanzata, di sposarci, questo deve realizzarsi con calma, con i tempi giusti, con i modi giusti, e non dipende poi alla fine tutto da noi. Tante volte è successo che c'erano fidanzati di cui uno dei due non sapeva niente. Quindi è facile che succeda che dipende solo da te o dipende solo dall'altro, ma che in realtà non si concretizza. Una vita controllata dall'esterno, quindi controllata dalle circostanze, da quello che succede. Noi in realtà non sappiamo neanche fra un'ora che cosa succederà o come staremo. Noi non sappiamo neanche domani, ma già come è scritto, voi dite, ma alla fine un vapore siete. Quindi voglio usare questa immagine del vapore. Siamo tanti vapori di una pentola che bolle. Quindi c'è sempre qualche altro, che sia una circostanza, che sia una persona, che sia un dovere, che sia qualcosa che in qualche modo controlla la tua vita. E quando qualcun altro controlla l'andamento del tuo tapirulan, succede che qualche volta ti fa andare più veloce di quello che tu vuoi o di quello che tu puoi, e allora devi correre, fai una vita di corsa e stai sempre rincorrendo, e stai rincorrendo un di più, che può essere più divertimento, può essere più salute, può essere più soldi, può essere più like, può essere qualsiasi cosa, basta che è di più. E tu ti ritrovi ad andare di fretta e a non ricordarti perché stai facendo quello che stai facendo. E nonostante questo ti consumi, ti spendi e ti dai per fare quello che ti viene messo davanti senza che in effetti tu lo abbia desiderato, lo abbia voluto. Una vita accelerata. Perché altri decidono quella che è la velocità che devi avere. E questo è quello che è successo al giovane ricco. Lui pensava di aver preso la sua vita nelle mani. Finalmente, papà, me lo so tolto dai piedi. Ma ha trovato degli amici che lo hanno usato, che lo hanno sfruttato, che hanno controllato la sua vita, gli hanno fatto spendere di più di quello che poteva. Altri hanno iniziato a controllare la sua vita. Ed è quello che è successo, è scritto, è qui, ed è quello che può succedere a noi. E così questo giovane si è ritrovato a essere giovane, ma non più ricco. Se prima era il giovane ricco, mo era solo il giovane, e il giovane era lui e si girava. E si è trovato nel bisogno, è scritto nel bisogno. Quante volte noi ci fermiamo a considerare i bisogni che stiamo vivendo, i bisogni che abbiamo, i bisogni che sono nascosti nella nostra vita? Sapete, a me succede che a volte non riesco a trovare sonno, non riesco a dormire e voglio dormire. Perché? Perché sto pensando a quelli che sono i miei bisogni. E magari forse durante tutto il giorno non ci penso, perché sei impegnato con il lavoro o sei impegnato nelle varie attività della giornata, però poi quando ti fermi, ti rilassi un attimo, inizia a pensare e inizia a capire, inizia a scoprire quelli che sono i bisogni che hai, a cui magari non stai dando nemmeno retta. Ma c'era un bisogno che questo giovane non poteva sottovalutare e non poteva dimenticare, non poteva mettere da parte: aveva fame. Ecco, il bisogno della fame si fa spazio e si fa forte in qualsiasi modo. Però si è trovato a vivere una vita rallentata. E chi l'aveva rallentata? L'aveva rallentata proprio chi gli aveva dato il lavoro. Ora dovete capire che per gli ebrei fare il pastore delle pecore ancora poteva andare. Il grande Mosè ha fatto il pastore delle pecore e poteva andare bene, ma il pastore dei maiali no, perché erano degli animali impuri, era la cosa più deplorevole che uno poteva fare, era la condizione più umiliante nella quale si poteva trovare. Quindi lui, oltre ad avere fame, era in una condizione proprio misera, una vita rallentata, una vita al di sotto delle possibilità. E se avete la possibilità, provate a salire su un tapis roulant e a mettere la velocità minima. È più difficile che andare veloce. È più difficile, è veramente difficile andare, vivere una vita rallentata. E non sto parlando di situazioni eccezionali, come quelli di questo giovane che si è trovato in mezzo ai maiali a digiuno, ma sto parlando della nostra vita quotidiana. Quando noi viviamo soltanto per risolvere i nostri problemi o i problemi degli altri, se siamo generosi, quando noi viviamo solo per guadagnare dei soldi, quando noi viviamo solo per stabilire dove andremo in ferie, se andremo in ferie. Questa è una vita rallentata, perché quando tu ti fermi a pensare, tu ti rendi conto che è una vita che non vale la pena vivere. Tu ti rendi conto, non c'è bisogno che io ti convinca o che io te lo dica. Come a quel giovane non c'era bisogno di dirgli: oh, vedi che tu sei in una situazione proprio misera, svegliati. Non c'era bisogno che nessuno andasse a dirglielo. Così a te e a me non ce lo deve venire a dire nessuno, se stiamo vivendo una vita che per noi stessi non ha valore o è inutile. E sapete che cosa succede? Quando noi viviamo con questo standard o in questo modo, sappiamo che c'è di più. E magari ci sforziamo anche di cercarlo, ma quando poi non lo troviamo, ci accontentiamo e ci facciamo piacere quello che sta succedendo, facendo finta che va di bene. E questa è una situazione miserabile, come lo era la situazione di quel giovane. Beh, tutto questo è molto triste. È molto triste vivere una vita accelerata, dove vieni sfruttato, dove vieni abusato e dove vieni valorizzato solo per quello che hai da dare, quando lo hai da dare. Come è altrettanto brutto vivere una vita rallentata, al di sopra delle proprie possibilità, una vita che non ti dà soddisfazione. Ma sapete la cosa veramente triste qual è? È che una vita su un tapis roulant o accelerato o rallentato non ti porta da nessuna parte. Non vai da nessuna parte. Tu ti stanchi, ti affatichi, sudi, poi ti fermi e sei sempre lì dove eri. Ti sembra di aver fatto qualcosa, ma non hai fatto niente. Ed è proprio quello che quel giovane ha pensato. Quando lui è ritornato in sé. Leggiamo dal versetto 15. No, dal capitolo 15, dal versetto 17. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza? E io qui muoio di fame. Io mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato un tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E qui dalla parabola del figlio prodigo diventa la parabola del padre misericordioso, del padre generoso, del padre pieno di grazia, pieno di perdono, che è la figura del nostro padre. Ora, uno che è stato con i maiali, ed è quando uno si ritira da fare jogging, sta tutto sudato e nessuno lo vuole abbracciare. Ieri sono entrato nella stanza di noi, mi ha detto: papà, stai tutto sudato. E non la volevo abbracciare, ma sono solo entrato. Ma figuratevi uno che rientra da pascolare i maiali. Quel padre non si è fatto fermare dalla sporcizia, dalla puzza, da niente. Gli è corso incontro e lo ha abbracciato. Per me è un'immagine meravigliosa. E il figlio ha iniziato a fare le sue a chiedere il suo perdono. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Cioè ha memorizzato quello che voleva dire e lo stava dicendo. Il versetto 22 dice: ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo e mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, è perduto ed è stato ritrovato. E queste parole sono molto simili a quello che Gesù ha detto alla fine della storia dell'incontro con Zaccheo. Quando ha detto: il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a trovare e a salvare quello che era perduto. Sono le stesse parole, è la stessa bellezza, è l'attitudine di questo padre che corre incontro al figlio e se lo abbraccia, è la stessa attitudine che Gesù ha illustrato nella parabola del buon pastore, quando ha detto: il pastore dà la vita delle pecore. E a un certo punto dice: io sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza. Non una vita accelerata, non una vita rallentata, non una vita sul tapirulan che non ti porta a niente, una vita abbondante. Ora per noi è importante capire di che vita stiamo parlando. Stiamo parlando di una vita sotto il controllo dello Spirito Santo. Il Salmo 23, il versetto 4 dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Qui non è scritto che andrà sempre tutto bene, non è scritto che la valle dell'ombra della morte, già la valle puzza, ma dell'ombra della morte, e tu e io ci troveremo in mezzo, perché fa parte del pacchetto di essere vivi. Se non vuoi attraversare la valle dell'ombra della morte, devi morire. Ma se sei vivo, attraverserai la valle dell'ombra della morte. Questa è la verità. Però qui è scritto: io non avrò paura perché tu sei con me. Significa una vita dove lo Spirito... Avete ascoltato il meraviglioso messaggio di mercoledì scorso del pastore, quando diceva: io incontro qualcuno e mi metto lo Spirito Santo sotto braccio e loro non guardano più me, guardano lo Spirito Santo che giganteggia. Ma non lo so se è proprio così, però è qualcosa di meraviglioso. È questo, una vita con lo Spirito Santo. Notate le parole del Padre. Portate la veste più bella. Portate la veste più bella. Quel figlio si era già giocato tutte le sue chance, tutte le sue possibilità e non meritava più niente. La sua parte aveva già avuto. Ecco perché ha detto: trattami come uno dei servi. E se guardate attentamente, il padre lo ha interrotto. Non gli ha fatto finire la frase. Non gli ha fatto dire: trattami come uno dei tuoi servi. Nel momento che lui lo stava dicendo, ha detto ai servi: prendete la veste più bella, la veste più bella, e andatelo a rivestire. Questo ci porta a riflettere almeno un paio di cose. Uno, quando il figlio se n'è andato, il padre non è che ha preso tutte le veste e le ha buttate, dice: se n'è andato, non viene più, le ha conservate. Lui credeva che sarebbe ritornato, sperava che sarebbe ritornato ed stava ad aspettarlo. E non era un'aspettativa così, era un'aspettativa con l'armadio pieno delle vesti più belle del figlio. E poi gli ha detto: mettetegli l'anello. E l'anello era il simbolo dell'autorità, dell'appartenenza alla famiglia. Il faraone, quando a Giuseppe gli ha detto: comandi tu adesso, gli ha messo l'anello al dito. E il figlio stava dicendo: il padre stava dicendo al figlio: tu sei ancora mio figlio. La veste più bella, rivestitelo, significa che il padre aveva ancora il meglio da offrire a suo figlio. Non una cosa arrangiata, ma il meglio ancora. E che cosa c'è di meglio di vivere una vita? Spendere una vita perché venga il regno di Dio sulla terra, perché sia fatta la volontà sua in terra come è fatta nel cielo. Io vi sfido a trovare qualcosa, una vita che abbia più valore. Stiamo parlando di una vita eterna. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Una vita con una prospettiva eterna. Da stare seduto con i maiali, egoisti maiali che non gli davano neanche, non facevano neanche a parte con lui del mangiare, a una vita eterna. Ora, io ho iniziato a preparare questo messaggio diverso tempo fa, però aveva un orientamento un po' diverso. Quando poi mi sono reso conto della direzione che prendeva e l'ho finito di scrivere, e l'ho riletto, sono andato a vedere il calendario e ho visto che non c'erano né battesimi né un evento che giustificasse qualcosa del genere. E allora ho pensato: ma allora zitto, desidero, ma sei sicuro proprio che è questo il messaggio per domenica? E sapete, il Signore mi ha risposto e prima mi ha fatto una domanda. Ha detto: scusa, ma devi predicare tu o devo predicare io? Chiunque buon predicatore dice: no Signore, è la tua parola che deve andare avanti. E poi il Signore ha aggiunto, ha detto: io sono quel padre e io so quanti figli sono andati via di casa. E io so quanti figli sto aspettando. Tu non ti preoccupare, fai l'asina. E allora ho detto: ok Signore, tu sei il padre, tu devi predicare e tu sai quanto è necessaria una cosa del genere. Ed essere preoccupato mi è venuta la gioia, non vedevo più l'ora di condividere con voi e con tutte le persone che sono in stream questo messaggio. Ora, il punto è questo. se tu hai sentito in queste parole che tuo padre ti stava chiamando, perché questa è la tua condizione, allora devi fare la cosa giusta, devi alzarti e devi tornare a casa, perché questo è il motivo perché tu sei qui stamattina o tu stai ascoltando questo messaggio attraverso lo schermo. Perché il Signore vuole che tu torni a casa per darti una vita che abbia un valore, che abbia un senso, che abbia un significato. E sapete, quel figlio era perso anche quando stava nella casa del padre. Non si è perso quando è andato, come è scritto più in là, con le prostitute a spendere i soldi, eccetera, eccetera. Era perso già quando era a casa sua, perché non condivideva il cuore del padre, non aveva un padre, aveva qualcuno che gli doveva dei soldi. Quindi non ti nascondere dietro al fatto, ma io sto in chiesa, non sto mica in un posto brutto, perché il tuo cuore, il mio cuore, può essere lontano da dove deve essere. E Dio è proprio a quello a cui sta guardando. Quindi il mio invito è quello di chiederti di tornare a casa, perché il Padre ti sta aspettando. E io vorrei pregare con voi e con quanti stanno seguendo una preghiera di riconciliazione che possa farci scendere dalla nostra autosufficienza o dal nostro dipendere dagli altri e possa farci salire nel treno della vita eterna, possa metterci su quel binario dove noi diciamo: Signore, la tua volontà sia fatta. Vogliamo alzarci in piedi per piacere e preghiamo. Signore Gesù, io ti voglio ringraziare perché tu sei quel Padre pieno di amore, pieno di compassione, che ci sta aspettando. E Signore, noi adesso vogliamo seriamente guardare a dove siamo. E decidere di tornare da te, per ricevere da te una veste nuova di perdono, di purificazione, per ricevere da te un anello che ci porta a essere in autorità con te, sulla nostra vita, per ricevere le scarpe ai piedi che da una condizione di schiavitù ci fanno diventare degli uomini liberi. Signor Gesù, vogliamo tornare a te non come servi ma come figli, ricevere il tuo abbraccio, ricevere il tuo perdono, ricevere un inizio nuovo. E se tu è per la prima volta che ti stai rivolgendo a Dio, allora vorrei guidarti in una preghiera di salvezza. Puoi ripetere queste parole dopo di me. Signore Gesù, grazie perché mi ami. Grazie Signore Gesù perché non ti sei dimenticato di me. Io adesso voglio ritornare a casa, voglio ricevere il tuo abbraccio, ti chiedo perdono per i miei peccati, dichiaro che sei il Signore della mia vita e ricevo in dono la vita eterna. Grazie per il tuo amore. Signore Gesù, vogliamo appartenerti e vogliamo amarti con tutto il nostro cuore. Amen.